pleasures I could not refuse. No. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Prima della pausa interviste, che forse riprenderemo a luglio, abbiamo dunque un'altra formazione che è venuta da molto lontano per poter presentare il disco. A voi la parola, ragazzi. Ciao a tutti, noi siamo i New Disorder e, come ha sottolineato Jean-Luc, veniamo da lontanissimo, per la precisione da Roma. Ci presentiamo con i nostri nomi. Io sono Fran, il cantante. Io sono Beats, chitarre. Io sono Gio Santita, chitarra. E Steve, basso. Salutiamo il nostro batterista, che non è potuto venire, Max, e purtroppo per problemi lavorativi non è potuto essere qui. Va bene. A New Disorder tocca un percorso musicale iniziale tra pomp rock e AOR e heavy metal britannico. Nella prima parte abbiamo iniziato con un brano degli Styx, band in cui spiccavano Dennis DeYoung alla voce e James Young alla chitarra. La canzone si chiama Born for Adventure ed è tratta dal disco Equinox del 1975. Tecnica e armonie vocali sono il segreto di questa storica band. Che ne dite? Beh, senza dubbio, sì, una grande presenza vocale da parte del cantante solista, una solida base ritmica in stile, se mi permetti il termine, zeppeliniano, diciamo, certo, perfettamente calato nel periodo. E ricorda anche alcuni brani di una band che a noi sta molto a cuore, che sono i Queen, sicuramente più famosi. E poi, sicuramente molto interessanti, come tipicamente nel periodo, gli inserti corali e il ritmo terzinato, che è d'obbligo. New Disorder è una band attiva da un anno. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Sì, dunque la formazione attuale è composta da 5 elementi, però diciamo che la line-up definitiva si è definita dopo l'estate. Infatti inizialmente il progetto ruotava intorno a un nucleo formato soltanto da 3 di noi, che sono Fran, John e Steve. Diciamo, ci conosciamo perché ognuno di noi faceva parte, o alcuni di noi fanno tuttora parte, di altre band che ruotano nella scena musicale romana, e come succede normalmente durante i live, durante le kermesse, ci si incontra, ci si conosce, ci si apprezza reciprocamente, come a volte accade, diciamo, si decide anche di iniziare delle collaborazioni che nei casi più fortunati diventano veri e propri progetti con degli obiettivi anche precisi. Così, insomma, nasce il progetto New Disorder, con lo scopo di fare un genere di musica che stimolasse i gusti musicali di tutti noi, e portando dentro ognuno di noi la propria esperienza musicale, abbiamo iniziato a scrivere musica, e quindi all'interno di ognuno di questi pezzi c'è l'influenza di tutti quanti noi. Proseguiamo con i Rush, nominati ambasciatori della musica canadese, il trio Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart, dal disco A Farewell to Kings con Cinderella Man. Traveled voyage to the sea. He had a need to discover a use for his newly found wealth. Una band che dopo 38 anni di storia continua a mietere successi e fans. Quale secondo voi il segreto di tanta longevità artistica? Beh, il segreto sicuramente è che sono maledettamente progressive. Diciamo, nella loro storia musicale sono evoluti e continuano a scoprire nuovi stili, nuovi generi musicali e non fermano mai la loro mente, sono sempre in continua sperimentazione. Per me questo è il vero segreto, soprattutto dei Rush. Possiamo, una piccola parentesi, YYZ, una grandissima canzone dei Rush, ha ispirato, secondo la mia opinione, tutta la storia dei Dream sui primi quattro dischi. E questo è fuori discussione, inevitabile. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e quali le reazioni a caldo del pubblico a fine concerto? Diciamo che l'attività live è iniziata da un paio di mesi e abbiamo iniziato e stiamo concludendo, diciamo, un mini tour al centro Italia e per promuovere il nostro CD. E la band, diciamo, inizialmente ha incontrato piccole, se non minuscole, difficoltà, diciamo, per entrare nel cuore della gente. Però abbiamo notato che molte persone che ci ascoltavano dal vivo durante il concerto, man mano che si evolveva, insomma, il live, piano piano riuscivamo a catturare la loro curiosità. E quindi magari persone che i primi concerti ci avevano seguito senza, diciamo, alcuna empatia, andando avanti hanno cominciato ad avere più curiosità e magari a cercare anche di venire a seguirci per altre date, per altri concerti. E vorrei ribadire, comunque, diciamo, in Italia è sempre un po' comunque difficile per questo tipo di musica, insomma, farci spazio in concerti, live e esibizioni, insomma. Nella scena musicale italiana. Esatto, nella scena musicale italiana. Concludiamo questa parte con i Journey, i musicisti provenienti da esperienze di studio con un grande bagaglio tecnico. Li riascoltiamo dal disco Departure del 1980 con Any Way You Want It. Fra poco con i New Disorder per la seconda parte.